Il primo di quei giorni, ai quali la neve, immagine delle potenze che potevano privarmi della vista di Gilbert, conferiva la tristezza di un giorno di separazione e persino l'aspetto di un giorno di partenza, perché cambiava il volto e quasi impediva l'uso del luogo abituale e unico dei nostri incontri, ora mutato, tutto avvolto di fodere. Quel giorno però fece compiere un progresso al mio amore. Infatti fu come se lei condividesse con me un primo dolore. C'eravamo soltanto noi due della nostra banda e trovarmi così solo accanto a lei costituiva non soltanto quasi un inizio di intimità, ma mi sembrava anche da parte sua quasi fosse venuta esclusivamente per me con un tempo simile. Non meno toccante che se uno di quei giorni in cui era invitata a un matinée mi avesse rinunciato per raggiungermi agli Champs-Élysées. Cresceva la mia fiducia nella vitalità e nel futuro della nostra amicizia, che restava viva in mezzo al torpore, alla solitudine e alla rovina delle cose circostanti. E mentre lei mi infilava delle palle di neve nel colletto, sorridevo con tenerezza a quel gesto che mi sembrava una predilezione che mi attestava, tollerandomi come compagno di viaggio in quel paese invernale e nuovo, e una sorta di fedeltà che mi riservava in mezzo alla sventura. Ben presto, l'una dopo l'altra, come esitanti passerotti, arrivarono le sue amiche, tutte nere sulla neve. Cominciamo a giocare. E siccome quel giorno, iniziato così tristemente, doveva finire nella gioia, mentre prima di giocare a bandiera mi avvicinavo all'amica dalla voce breve, quella che avevo sentito il primo giorno pronunciare in un grido il nome di Gilbert, mi disse: «No, no, sappiamo bene che preferite stare nella squadra di Gilbert, e poi, guardate, vi sta facendo segno». In effetti mi chiamava perché andassi sul prato coperto di neve dalla sua parte, che il sole, donandogli i suoi riflessi rosati e l'usura metallica degli antichi broccati, trasformava nel campo dal drappo d'oro. Quel giorno, che avevo tanto temuto, fu al contrario uno dei pochi in cui non fui troppo infelice. Infatti, io che non pensavo ad altro ormai che a non restare un giorno senza vedere Gilbert, al punto che una volta, non essendo la nonna rientrata per l'ora di cena, non potei impedirmi di pensare immediatamente che se fosse stata travolta da una carrozza non avrei potuto andare per qualche tempo agli Champs-Élysées. Non si ama più nessuno quando si è innamorati. Tuttavia, quei momenti in cui le stavo accanto e che dal giorno prima avevo tanto impazientemente atteso, per i quali avevo tremato, ai quali avrei sacrificato tutto il resto, non erano affatto momenti felici. E lo sapevo perfettamente. Infatti, erano i soli momenti della mia vita sui quali concentrassi un'attenzione meticolosa, accanita, e la mia attenzione non vi scopriva un solo atomo di piacere. Tutto il tempo in cui ero lontano da Gilbert sentivo sempre il bisogno di vederla, perché cercando senza posa di rappresentarmi la sua immagine finivo per non riuscirci più e per non sapere nemmeno più esattamente a cosa corrispondesse il mio amore. Inoltre, lei non mi aveva ancora detto di amarmi, anzi al contrario, spesso aveva sostenuto di avere degli amici che preferiva a me, che io ero un buon compagno con il quale giocava volentieri, anche se troppo distratto, non abbastanza attento al gioco. Infine, mi aveva dato spesso segni evidenti di freddezza che avrebbero potuto scuotere la mia convinzione di essere per lei qualcosa di diverso dagli altri, se quella convinzione avesse tratto origine da un amore di Gilbert per me e non, come in effetti era, dal mio amore per lei, il che la rendeva ben altrimenti tenace, subordinandola al modo stesso in cui ero costretto da una necessità interiore a pensare a Gilbert. Ma i sentimenti che provavo per lei, io stesso non gliel'avevo ancora dichiarati. Certo, su tutte le pagine dei miei quaderni scrivevo all'infinito il suo nome e il suo indirizzo, ma alla vista di quelle vaghe linee che tracciavo, senza che per questo lei pensasse a me, e che le facevano occupare tanto spazio apparente intorno a me, senza che per questo la sua vita fosse più intrecciata con la mia, ero preso dallo scoramento perché non mi parlavano di Gilbert, che non le avrebbe nemmeno viste, ma del mio desiderio, che sembravano mostrarmi come qualcosa di puramente personale, irreale, fastidioso e impotente. Il più pressante di quei desideri era che noi ci vedessimo, Gilbert ed io, e potessimo confessarci reciprocamente il nostro amore, che fino a quel momento non avrebbe, per così dire, neppure avuto inizio. È probabile che le varie ragioni che mi rendevano così impaziente di vederla sarebbero state meno imperiose per un uomo maturo. Più tardi succede che, divenuti abili nel coltivare i nostri piaceri, ci accontentiamo del piacere che proviamo pensando a una donna, come io pensavo a Gilbert, senza preoccuparci di sapere se quell'immagine corrisponde alla realtà, e anche del piacere di amarla senza aver bisogno di essere sicuri che anche lei ci ami. O ancora di rinunciare al piacere di confessarle la nostra inclinazione per lei al fine di tenere più viva l'inclinazione che lei ha per noi, imitando quei giardinieri giapponesi che per ottenere un fiore più bello ne sacrificano parecchi altri. Ma all'epoca in cui amavo Gilbert, credevo ancora che l'amore esistesse realmente al di fuori di noi, che permettendoci tutt'al più di evitare gli ostacoli, offrisse le sue gioie in un ordine in cui non c'è libertà di cambiare niente. Mi sembrava che se di testa mia avessi sostituito alla dolcezza della confessione la simulazione dell'indifferenza, non soltanto mi sarei privato di una delle gioie che avevo maggiormente sognato, ma mi sarei costruito a modo mio un amore fittizio e privo di valore, privo di rapporto con il vero, di cui avrei rinunciato a seguire i sentieri misteriosi e preesistenti. Ma quando arrivavo agli Champs-Élysées, dove per prima cosa avrei potuto confrontare il mio amore con la sua causa viva, indipendente da me, per fargli subire le modificazioni necessarie, appena mi trovavo davanti a quella Gilbert Swann, sulla cui presenza visibile avevo fatto assegnamento per rinfrescare le immagini che la mia memoria affaticata non ritrovava più, a quella Gilbert Swann con la quale avevo giocato ieri e che avevo salutato e riconosciuto grazie a un cieco istinto, come quello che nel camminare ci fa mettere un piede davanti all'altro prima di avere avuto il tempo di pensare, subito tutto avveniva come se lei e la ragazzina oggetto dei miei sogni fossero due esseri diversi. Per esempio, se dal giorno precedente serbavo nella memoria due occhi di fuoco su guance paffute e accese, il volto di Gilbert mi offriva ora con insistenza qualcosa di cui per l'appunto non mi ero ricordato. Un certo assottigliamento puntuto del naso che, associandosi istantaneamente ad altri tratti, assumeva l'importanza di quei caratteri che nella storia naturale definiscono una specie e la tramutava in una ragazzina di quelle col musetto appuntito. Mentre mi apprestavo ad approfittare di quell'istante desiderato per dedicarmi sull'immagine di Gilbert che avevo preparato prima di venire e che non ritrovavo più nella mia mente, alla messa a fuoco che mi avrebbe permesso, nelle lunghe ore in cui sarei stato solo, di essere certo che era proprio lei che ricordavo, che era proprio il mio amore per lei che accrescevo a poco come un'opera di composizione. Lei mi lanciava la palla. E come il filosofo idealista, il cui corpo tiene conto del mondo esterno, alla realtà del quale la sua intelligenza non crede, quello stesso mio io, che mi aveva indotto a salutarla prima di averla identificata, si premurava di spingermi ad afferrare la palla che mi passava, come se lei fosse una compagna con la quale ero venuto a giocare, e non un'anima sorella che ero venuto a raggiungere. Mi induceva a rivolgerle per buona creanza, fino al momento in cui se ne andava, mille discorsi amabili e insignificanti, impedendomi così di mantenere il silenzio durante il quale avrei potuto infine rimettere mano all'immagine urgente e smarrita, o dirle le parole che potevano far compiere al nostro amore i progressi decisivi, sui quali ero ogni volta obbligato a non più contare, sino al pomeriggio seguente. Qualche progresso però lo faceva. Un giorno, Eravamo andati con Gilbert fino alla bancarella della donna che era particolarmente gentile con noi, perché era da lei che Monsieur Swann faceva comprare il suo pane di spezie e per igiene ne consumava molto perché soffriva di un eczema etnico e della costipazione dei profeti. Gilbert mi indicò, ridendo, due ragazzini che sembravano il piccolo colorista e il piccolo naturalista dei libri per l'infanzia. Infatti uno di loro non voleva lo zucchero d'orzo rosso perché lo preferiva viola e l'altro, con le lacrime agli occhi, rifiutava una prugna che la sua governante gli voleva comprare perché, spiegò alla fine con voce appassionata, «Mi piace di più l'altra prugna perché ha un verme». Comprai due biglie da un soldo. Guardavo ammirato le biglie di agata luminose, prigioniere in una ciotola a parte, che mi sembravano preziose perché erano sorridenti e bionde come fanciulle e perché costavano 50 centesimi l'una. Gilbert, a cui davano molto più denaro che a me, mi chiese quale mi sembrasse la più bella. Avevano la trasparenza e l'indeterminatezza della vita. Avrei voluto non fosse costretta a rinunciare a nessuna. Mi sarebbe piaciuto avesse potuto comprarle, liberarle tutte. Ma gliene indicai una che aveva il colore dei suoi occhi. Gilbert la prese, cercò il suo raggio dorato, la carezzò, pagò il prezzo, ma subito mi consegnò la sua prigioniera dicendomi «Tenete, è vostra, ve la regalo. Conservatela come ricordo». Un'altra volta, sempre ossessionato dal desiderio di sentire la Berma in un classico, le avevo domandato se non possedesse un saggio in cui Bergotte parlava di Racine e che non si trovava più in commercio. Lei mi aveva pregato di ricordargliene il titolo esatto e la sera le avevo spedito un breve telegramma scrivendo sulla busta quel nome, Gilbert Swann, che avevo tante volte tracciato sui miei quaderni. Il giorno dopo mi portò in un pacchetto, annodato con un nastro color malva e sigillato con cera bianca, l'opuscolo che aveva fatto cercare. «Vedete, è proprio quello che mi avete chiesto», mi disse, estraendo dal suo manicotto il telegramma che l'avevo inviato. Ma nell'indirizzo di quel messaggio, che ancora ieri non era nulla, nient'altro che un petit bleu scritto da me, e dopo che un fattorino del telegrafo l'aveva consegnato al portiere di Gilbert e un domestico l'aveva portato sino alla sua stanza, si era trasformata in quella cosa senza prezzo, uno dei petit bleu che lei aveva ricevuto quel giorno. Stentai a riconoscere le vane e solitarie linee della mia calligrafia sotto i cerchi dei timbri che aveva impresso la posta e le iscrizioni aggiunte a matita da uno dei postini, segni di effettiva realizzazione, sigilli del mondo esterno, violacee cinture simboliche della vita che per la prima volta venivano a sposare, mantenere, mettere in evidenza, rallegrare il mio sogno. E ci fu anche un giorno in cui mi disse: «Sapete, potete chiamarmi Gilbert. In ogni caso, io vi chiamerò con il vostro nome di battesimo. Così è troppo imbarazzante». Ma per un po' continuò a darmi del voi, e siccome glielo feci notare, sorrise e costruendo una frase come quelle che nelle grammatiche straniere non hanno altro scopo che farci usare un nuovo vocabolo, la terminò con il mio nome di battesimo. Ricordandomi più tardi quello che avevo provato allora, vi ho isolato la sensazione di essere stato tenuto io stesso per un istante nella sua bocca a nudo, senza più alcuna delle modalità sociali che appartenevano anche sia ai suoi altri amici, sia, quando diceva il mio cognome, ai miei genitori, e di cui le sue labbra, nello sforzo che faceva un po' come suo padre ad articolare le parole che voleva mettere in evidenza, sembrarono spogliarmi, svestirmi, come si sbuccia un frutto di cui non si mangi che la polpa, mentre il suo sguardo, ponendosi allo stesso nuovo grado di intimità che assumevano le parole, mi raggiungeva anche più direttamente, non senza testimoniare, tramite il sorriso da cui si fece accompagnare, la consapevolezza, il piacere e addirittura la gratitudine che ne traeva.